coraggio, conforto, contemplazione. Orizzonti Cristiani. Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme. Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto da Don Ferruccio Bortolotto. Amici della Radio Vaticana, un caro saluto da Don Ferruccio. Celebreremo domenica prossima la Domenica della Santa Famiglia, dopo aver posto il nostro sguardo sul bambino Gesù, su quel bambino che è veramente Dio, veramente uomo, sull'incarnazione del Verbo. Oggi è chiesto al nostro sguardo di allargarsi, di compiere uno sforzo in un certo senso maggiore, quello di soffermarsi sul mistero e sulla bellezza di quella che è un'esperienza a noi comune, che è quella della nostra famiglia. Oggi guardiamo alla famiglia di Gesù composta da Maria e da Giuseppe. Nella orazione colletta ci viene presentato Dio Padre come il creatore che genera il figlio prima dell'aurora del mondo perché diventi un membro della nostra famiglia umana. È interessante vedere come l'aurora, questo fenomeno naturale che colora il cielo di oro o di un rosso fuoco prima che il sole si alzi, e che questo simbolo preso dalla natura diventi espressione della generazione del figlio da parte del padre. Molto interessante e affascinante. La vita dell'uomo ci è mostrata come dono e come mistero. Dono perché viene da Dio e la vita non ci appartiene, è uno dei regali, se non il regalo più bello che noi abbiamo ricevuto da Dio. E mistero perché se vogliamo comprendere sino in fondo la nostra esperienza umana siamo costretti a ricorrere all'esperienza di Dio, ad aprirci a Lui. Leggiamo infatti nel Catechismo della Chiesa Cattolica che l'uomo è creato per vivere in comunione con Dio, nel quale trova la propria felicità. Scrive Sant'Agostino: quando mi sarò unito a te con tutto me stesso, non esisterà per me dolore e pena, sarà vera vita la mia, tanto piena di te. È interessante vedere come appunto l'esperienza di Dio, la vocazione fondamentale dell'uomo è quella della felicità dell'unione con Lui. Ma sempre dall'orazione colletta noi possiamo cogliere una duplice vocazione, quella dei genitori, che sono chiamati ad essere partecipi della fecondità dell'amore di Dio, e quella dei figli, che hanno per vocazione quella di crescere nella lode. I genitori, che con la procreazione creano il posto di Dio, hanno questo grande compito, questa grande missione di donare la vita in nome di Dio, e i figli che sono chiamati a trovare nella lode, nel ringraziamento, nella gioia di donare, di ridonare la propria vita, la forza e gli spunti necessari per la loro maturazione. Nella prima lettura, il libro del Siracide, vengono descritte tutte le opere buone che siamo chiamati a compiere innanzitutto in casa, in famiglia. Qual è il primo luogo in cui abbiamo ricevuto la fede? La famiglia. E qual è il primo luogo in cui noi siamo chiamati a testimoniare la fede? La nostra casa, la nostra famiglia, lì dove gli estranei non ci vedono. Ed è bello vedere questa intimità che ci viene proposta, l'intimità come luogo più profondo della casa, come il sacrario proprio della vita, quando nel Salmo leggiamo: la tua sposa è come vita profonda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli sono un virgulto d'ulivo intorno alla tavola. Ancora l'immagine della casa viene unita con quella della natura, la vita è feconda e i virgulti dell'ulivo. L'olio che ci richiama la consolazione e la vite che ci richiama al vino e quindi alla festa sono davvero simboli che si legano alla bellezza e al mistero della famiglia, così come esprimono anche in luce quella realtà sacramentale dell'Eucarestia, dei sacramenti. Pensiamo al significato dell'olio che dà forza, che sono legati alla famiglia. È lì, nelle nostre case, che noi viviamo l'esperienza della Chiesa domestica ed è nelle nostre case che si fonda e nasce la pratica dei sacramenti. Nella seconda lettura l'Apostolo Paolo ci dà un elenco di virtù, di dimensioni, io direi, per vivere in le nostre relazioni in casa. La prima, la tenerezza, le scorro velocemente, la bontà, l'umiltà, lo scoprirsi fatti di terra, ovvero creati da Dio, plasmati da Lui, la mansuetudine. Pensate all'agnello condotto al macello della passione, a Gesù obbediente che deve fuggire in Egitto con Maria e Giuseppe, la mansuetudine, lasciarsi guidare, condurre da Dio secondo il cuore di Gesù, la grandezza d'animo. È nella famiglia che si scoprono e vivono i valori più grandi. Così come la sopportazione, il perdono, ridire il proprio sì ogni giorno è il compito che gli sposi assumono con il matrimonio cristiano. E tutte queste dimensioni hanno una grande e unica radice, che è la carità, l'amore di Dio riversato nei nostri cuori. Nella pagina di Vangelo vi sono alcuni verbi molto interessanti che sono messaggi e inviti che Giuseppe riceve in sogno, così come aveva ricevuto l'annuncio dell'angelo da parte di Dio. Il primo, alzati. Il secondo, prendi il bambino e sua madre. Il terzo, fuggi. E infine, nella seconda apparizione, torna. Questi verbi di movimento indicano in un certo senso quella che è la dimensione della fede. Giuseppe deve lasciare le proprie certezze, è chiesto di alzarsi, è il verbo della risurrezione, è come se fosse raggiunto misteriosamente prima dell'avvenimento stesso dalla risurrezione di Gesù. Alzati, è il verbo che indica che la vita ha mutato qualcosa in noi, la vita con la V maiuscola, quella che Gesù ci ha restituito come immortale. Ebbene, Giuseppe è già chiamato al servizio della risurrezione. E allora celebriamo davvero, ed è questo anche il mio augurio, questa domenica di festa, pensando che il Vangelo della vita e della risurrezione sia davvero il centro e il cuore di tutto quello che nelle nostre case, nelle nostre famiglie, possiamo vivere e sperimentare. Ancora un caro saluto. Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto da Don Ferruccio Bortolotto. Realizzazione di Monia Parente.